Blu Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia. Continuiamo il percorso nell'anno in cui si ricordano i 500 anni dalla Riforma Luterana, insieme al Centro Universitario di Via Zabarella a Padova, che ha predisposto dallo scorso mese di ottobre una serie di incontri incentrati sulla lettera ai Romani. L'appuntamento di oggi ci propone la relazione di Daniel Attinger sul tema «Siamo figli di Dio? No, lo diventiamo». Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Don Roberto mi ha affidato un tema che non è facile riassumere nel giro di un'oretta. Mi ha chiesto all'inizio di parlare della vita nuova secondo la lettera di Paolo ai Romani. Io ho proposto di mettere come titolo questa parola un po' provocatrice: siamo figli di Dio? No, lo diventiamo. Perché effettivamente mi sembra che sia una delle caratteristiche dell'insegnamento non soltanto di Paolo ma del Nuovo Testamento, che caratterizza appunto la ricerca della vita nuova secondo la lettera di Paolo ai Romani. Infatti noi molto spesso e forse un po' banalmente diciamo: ma siamo tutti creati da Dio, quindi siamo tutti fratelli. In realtà questa affermazione non si trova da nessuna parte nella scrittura. Non si parla mai di una fraternità umana basata sulla creazione. Per tutto il Nuovo Testamento, per l'Antico Testamento anche, la fraternità è limitata. E questo ci scandalizza un po', perché ci piacerebbe di poter parlare di tutti come dei nostri fratelli, tanto più che questa è un'affermazione che va sempre più di moda all'interno soprattutto del dialogo interreligioso, in cui bisogna pur riconoscere questa fraternità universale che è dovuta al nostro essere creato. Invece per Paolo si diventa figli di Dio attraverso un atto che all'inizio della grande sezione dell'Epistola ai Romani sulla vita nuova, che si trova nell'Epistola ai Romani nei capitoli 6, 7 e 8 di questa lettera, in particolare i capitoli 6 e 8 che si rispondono e che inquadrano un capitolo 7 estremamente problematico, in cui Paolo descrive la lotta interna che c'è nell'uomo tra sé e il suo essere peccatore. Comunque questo capitolo 7 lo lascerò da parte e mi interesserò soprattutto del capitolo 6, che è l'inizio di questa sezione sulla vita nuova, e il capitolo 8 che è una specie di grande sinfonia sulla vita nuova. Diciamo allora chiaramente fin dall'inizio che per Paolo, come d'altronde per tutti gli autori del Nuovo Testamento, sono figli di Dio quelli che lo sono diventati per opera dello Spirito Santo. Alcune citazioni possono bastare per convincerci di questa affermazione. Una che troviamo ad esempio in Romani al capitolo 8, versetti 14 a 17. Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Non avete ricevuto uno spirito che vi rende schiavi e vi faccia ricadere nella paura, ma uno spirito che fa di voi dei figli e nel quale gridiamo Abba Padre. Questo spirito attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Figli e dunque anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, poiché soffriamo insieme con Lui per essere insieme a Lui glorificati. Qui è chiaro, cioè per essere figli di Dio occorre aver ricevuto lo Spirito Santo, perché non si può dire a Dio papà, Abba, se non attraverso lo Spirito Santo. L'altra citazione che vorrei fare si trova nel prologo dell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 11 a 13, in cui l'Evangelista dice che il Verbo venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere d'uomo, ma da Dio sono stati generati. Per essere figli di Dio bisogna essere stato generato, e questo è un potere che ci è dato dal Verbo. Quelli che ricevono, accolgono il Verbo di Dio, diventano figli di Dio. Figli di Dio sono quindi quelli che hanno accolto il Cristo e sono guidati dallo Spirito, come pure lo sono anche gli israeliti, che nell'Antico Testamento vengono chiamati figlio di Dio. Pensate ad esempio all'episodio in cui Mosè è chiamato a andare al Faraone per liberare il suo popolo e dice nel nome di Dio, così parla Dio, libera il mio, lascia andare il mio figlio. O ancora nella profezia di Osea, capitolo 11, versetto 1, voi siete miei figli, dice Dio a Israele. Quindi per l'Antico Testamento gli israeliti, Israele è il figlio di Dio, per il Nuovo Testamento lo sono gli israeliti, che vengono anche interpellati, non so, da Paolo ad esempio, quando parla agli ebrei, parla a loro dicendo fratelli miei, cosa che non dice mai a dei pagani. Agli ateniesi non dice fratelli miei, ma dice o uomini di Atene. Quindi c'è una distinzione netta che viene operata tra l'essere fratello, figli di Dio, che corrisponde a Israele e i cristiani, e gli altri che non lo sono, diciamo piuttosto, non lo sono ancora, perché sono chiamati anche loro a diventare in un certo modo figli di Dio. Quindi, quindi questo ci porrà un certo problema, cioè delle relazioni che noi dobbiamo avere con quelli che non possiamo riconoscere come figli di Dio, però con i quali condividiamo la stessa umanità, siamo solidali di loro nell'umanità, viviamo con loro nella compagnia degli uomini e delle donne, e quindi questo è anche una cosa molto importante, vedremo anche questo sul finire di questa conversazione. Anzitutto, nell'epistola di Paolo ai Romani, per essere figli di Dio occorre essere guidati dallo Spirito Santo. E quelli che sono guidati dallo Spirito Santo sono quelli che hanno passato attraverso l'esperienza del battesimo, che è appunto l'oggetto del capitolo 6 della lettera di Paolo ai Romani. Soltanto che nel capitolo 6 Paolo non fa un trattato sul battesimo, non ne parla come noi aspetteremmo di uno che dice ecco il battesimo è questo, quello, cioè parla del battesimo in risposta a una polemica. Siccome Paolo ha affermato che laddove il peccato ha abbondato, la grazia ha sovrabbondato, la gente c'è gente che accusa Paolo di incitare la gente a peccare, già che più c'è il peccato, più c'è grazia, allora pecchiamo tranquillamente, perché così ci sarà un'abbondanza di misericordia. E in risposta a questa osservazione, a questa accusa, che Paolo parla del battesimo dicendo che il pretendere che lui, Paolo, battezzato, cristiano, possa dire allora pecchiamo così verrà abbondantemente la grazia, è semplicemente impossibile. È semplicemente impossibile. Impossibile non perché non è una cosa pensabile, neanche perché ci sono delle cose che non si fanno e quindi è bene non farlo, ma dice è impossibile che io abbia detto una parola del genere perché siamo stati battezzati. Ora, quando parla e spiega il battesimo, lo spiega in un modo che è abbastanza impressionante alle nostre orecchie. Dice, noi che siamo stati battezzati, siamo morti al peccato. Allora come vivremmo ancora in esso? Capitolo 6, versetto 2. Paolo va fino a dire del cristiano che nel battesimo il cristiano è stato consepolto con il Cristo. Consepolto, cioè usa un verbo significativo, non soltanto sepolto con, ma aggiunge ancora questo consepolto con il Cristo, quindi una vera associazione del cristiano con il Cristo morto. Siamo già stati sepolti nel battesimo, allora come potremmo peccare? Un morto non pecca più. Mi permetto di sottolineare la forza, la concretezza che il battesimo assume nel pensiero di Paolo. Stavo per dire che per lui è molto più di un sacramento. Forse è meglio dire che per lui il sacramento è più della realtà storica nella quale viviamo, perché benché Paolo dica che noi siamo morti, che siamo stati sepolti con Cristo, siamo ancora in vita, viviamo ancora, lavoriamo ancora, condividiamo delle cose con i nostri compagni di vita, pecchiamo ancora. Allora, come Paolo può dire che nel battesimo noi siamo morti e siamo stati sepolti col Cristo? E se noi dicessimo che non siamo peccatori, saremmo dei bugiardi. Ce lo dice anche la prima lettera di Giovanni, chi pretende di essere senza peccato è un bugiardo, perché non c'è uomo che non sia peccatore. E quindi allora come ce la mettiamo? A questo proposito vorrei citare una parola di Karl Barth, voi sapete che è l'autore di un famoso commento all'Epistola ai Romani, che ha provocato scalpore all'interno delle chiese riformate all'inizio del secolo scorso, appunto perché ridava tutta la sua forza alla parola di Dio contro un pensiero razionalizzante che aveva dominato le chiese protestanti. Karl Barth in questo suo commento scrive a proposito del battesimo questo: nel battesimo qualcuno è morto, un altro è nato. Il battezzato non è identico a colui che è morto, poiché il battesimo è per noi testimonianza della morte di Cristo, nella quale l'irrevocabile, il radicale diritto di Dio sull'uomo ha trionfato. Chi è battezzato è inghiottito e coperto da questa rivendicazione di Dio, e con questo egli è assolutamente sciolto e separato dall'insolente illusione di essere simile a Dio. Egli ha perduto la sua identità con l'uomo che sa e vuole il peccato. Ecco, questa è la formazione di Calvard a proposito del battesimo. Quindi nel battesimo noi davvero siamo morti e se viviamo è qualcun altro, è un altro che è rinato come dalle acque del battesimo. Se il battesimo unisce al crocifisso e se strettamente parlando la risurrezione resta fuori dall'orizzonte del battesimo, perché noi siamo morti col Cristo, ma non siamo risorti con Lui. Questo Paolo non lo dice. Invece quello che dice è in una certa relazione con l'evento di Pasqua, ma in una certa relazione soltanto. Dice che noi siamo morti, siamo stati sepolti col Cristo, perché possiamo camminare in una novità di vita. La quale novità di vita sarà il segno della nostra risurrezione futura, la quale rimane nel futuro. Infatti Paolo dice ancora, così come siamo morti e sepolti col Cristo, saremo pure al futuro, saremo pure connaturati con Cristo per conformazione alla sua risurrezione. Però questo è ancora da venire. Noi stiamo tra la nostra morte concreta, reale, già avvenuta nel battesimo, e la risurrezione che avverrà quando saremo morto corporalmente, se posso dire. Perciò il paragrafo sul battesimo di Paolo nel capitolo 6 si conclude con una esortazione. Non siamo ancora risorti, però viviamo una novità di vita e Paolo allora si premura di dare delle indicazioni su come vivere questa vita nuova. Soltanto che quando passa a questa esortazione, la forma che utilizza Paolo è estremamente strana. Dice così, capitolo 6, versetto 12 a 14: non regni dunque il peccato sul vostro corpo mortale per obbedire ai suoi desideri, né offrite al peccato le vostre membra come armi di ingiustizia, ma offrite voi stessi a Dio come se foste dei viventi usciti di fra i morti, e le vostre membra offritele a Dio come armi di giustizia. Il peccato infatti non dominerà su di voi perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Vedete, quando Paolo passa a questa esortazione utilizza delle espressioni strane, perché quando noi facciamo un'esortazione noi utilizziamo l'imperativo. Comportati così, fai questo, fai quello, non fare così. E così si deve imparare a obbedire. Invece in questa esortazione non c'è un imperativo. Paolo non dice quindi non dovete peccare, ma aggira le cose e anziché indirizzarsi ai cristiani, si indirizza al peccato. E dice il peccato non regni su di voi e non offrite le vostre membra al peccato che le utilizzerebbe per farne il male. Quindi chi agisce non è l'uomo, ma è il peccato che o regna sull'uomo oppure utilizza le membra dell'uomo per commettere il peccato. L'attore non è l'uomo, ma il peccato. E quando Paolo si indirizza direttamente ai cristiani, dice non offrite i vostri membri al peccato, ma offrite voi stessi a Dio, offrite voi stessi a Dio in modo che lui vi possa utilizzare come strumento di giustizia. In questo caso non è l'uomo di nuovo l'attore della vita nuova, ma è Dio stesso che utilizza le membra e il corpo dell'essere umano per compiere la sua giustizia. Cioè, è molto, molto caratteristico di Paolo questo, cioè l'idea che nella novità di vita, nella vita nuova, noi uomini, donne, noi esseri umani, non siamo più l'attore, quello che agisce in prima persona, ma in prima persona all'interno della nostra stessa esistenza agisce o il peccato, se abbiamo dato le nostre membra come arma al peccato, o Dio stesso, se noi abbiamo offerto il nostro essere a Lui. Però è Lui che diventa l'attore. Così come Paolo dirà nell'Epistola ai Galati, al capitolo 2, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ora, evidentemente, tutto questo non si vede niente. Cioè, abbastanza chiaro, cioè, non è che pretendo che ormai da quando sono stato battezzato e voi siete stati battezzati, ormai è Cristo che abita in voi, quindi tutto quello che fate, tutto quello che facciamo è perfetto. Però è un ritratto molto importante della teologia di Paolo, che indica che al di là di quello che noi viviamo, siamo, dobbiamo sapere che c'è un attore reale della nostra vita di battezzati che è Cristo stesso. Allora Paolo riflette abbastanza lungamente sui diversi aspetti di questa morte al peccato per concludere al capitolo 7, versetto 6, con queste parole: morti a ciò che ci ritiene, che ci riteneva prigionieri, cioè al peccato che utilizza la legge ai propri fini, noi possiamo servire nel regime nuovo dello spirito e non più in quello vecchio della lettera, espressione che anticipa il contenuto del grande capitolo 8 che descrive la vita del cristiano sotto la guida dello spirito. Allora, questo capitolo 8, sul quale adesso mi fermo, non è di facile lettura, come sempre, Paolo non è mai facile, è sempre contorto, delle frasi complicate che non finiscono mai, quindi bisogna un po' arrampicarsi per discernere il messaggio che Paolo afferma. Comunque Paolo nel capitolo 8 comincia con una proclamazione trionfale. Ora dunque non vi è più nessuna condanna per quelli che sono in Gesù Cristo. Non vi è più nessuna condanna per quelli che sono in Gesù Cristo. Perché la legge dello Spirito, la legge dello Spirito della vita, ti ha liberato in Cristo Gesù dalla legge del peccato e della morte. Perché cosa impossibile alla legge, che era debole a causa della carne, Dio, mandando il proprio Figlio in una carne conformata a quella del peccato, ma in vista del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché il verdetto della legge fosse compiuto in noi che non camminiamo più nel regime della carne, ma in quello dello spirito. È un'affermazione che bisogna ritenere il soffio per arrivare alla fine della frase. Dunque, vi ho letto appena questo testo di Paolo, che è difficile da seguire, però cerco di riprenderlo un po'. Cioè, Paolo proclama con grande forza: non vi è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché? Perché in Cristo è avvenuto qualcosa che la legge non poteva fare. Cosa la legge non poteva fare? La legge contiene dei precetti. Se io disubbidisco a questi precetti, io trasgredisco la legge. Quindi la legge confonde l'uomo con il suo peccato. Cioè, se io rubo, per la legge divento un ladro. Magari posso essere un buon padre di famiglia, posso amare degli amici, fare del bene di qua e di là, ma siccome ho rubato, ormai sono un ladro. E in quanto ladro, la legge mi punisce. Ecco, la legge non può distinguere tra il peccato e il peccatore. Questa è la debolezza della legge. Per cui, quando l'uomo si trova di fronte alla legge, la legge è sempre quella che lo condanna. Invece non fu così col Cristo, perché Cristo, lui, è capace di vedere dietro al peccato l'essere umano. Vede le sue sofferenze, vede le sue ferite, vede colui che, nonostante tutto, rimane ancora all'immagine del suo creatore. Ecco ciò che, secondo Paolo, è avvenuto sulla croce. Su di essa Gesù è morto, mentre in realtà non doveva morire, già che la morte è salario del peccato, come dice l'Epistola ai Romani al capitolo 6, versetto 23, e che Gesù era senza peccato. Perché è morto? Perché è morto? Non doveva morire, non aveva peccato. E la risposta che dà Paolo è che non è morto per il suo peccato, già che non ne aveva, ma è morto per i nostri peccati. E in questo modo ci ha liberato dalla condanna della legge. Nel contempo ha condannato il peccato nella carne, cioè nella sua stessa carne, la sua carne umana. Lui è morto, però nella sua morte, che era sbagliata perché non aveva peccato, non doveva morire, ha condannato il peccato. Gli ha detto: sei tu trasgressore e quindi ti faccio fuori, in un qualche modo. Ormai la legge non ci può più rimproverare alcun peccato, perché il Cristo è morto per tutti i nostri peccati. Il peccato è stato condannato sulla croce. Il verdetto pronunciato dalla legge contro di noi è stato compiuto. Non c'è più niente da dire. Addirittura, ormai, a causa dell'evento di Cristo, la legge si vede costretta a dire di noi che siamo giusti. Perché Cristo ha preso su di sé il nostro peccato e ci ha rivestito della sua giustizia. E quindi la legge deve dire: quello lì, quella lì, sono giusti, perché il peccato che hanno commesso è stato messo fuori dal Cristo crocifisso. E Paolo conclude allora la sua riflessione dicendo che tutto questo vale per noi che non camminiamo più nel regime della carne, ma in quello dello spirito. Versetto 4 del capitolo 8. Allora, a questo punto l'opera della croce ha forse valore soltanto per i credenti? Gesù forse è morto soltanto per quelli che credono in Lui? Certamente no. L'opera di Cristo è un'opera che ha valore universale. Addirittura Paolo, nell'Epistola ai Romani, ancora al capitolo 5, versetto 12 a 19, fa il paragone sull'estensione del peccato e l'estensione della salvezza. E dice: siccome attraverso uno il peccato si è esteso a tutta l'umanità e per questo a causa di uno la morte raggiunge ogni essere umano, a quanto più forte ragione la giustizia conquistata dal solo Cristo raggiungerà tutti gli uomini. Per Paolo l'estensione della salvezza è ancora più forte, più grande dell'estensione del peccato e della morte. Chissà perché nella Chiesa si è sempre ridotto questa cosa qua. La morte raggiunge tutti, ma la salvezza, non chissà, forse una piccola parte, forse una parte grande, però si è sempre lasciato in sospeso l'idea che la salvezza potesse raggiungere tutti i cristiani, tutti gli uomini. tutti gli esseri umani. Invece per Paolo è chiarissimo, la morte ha raggiunto tutti a causa del peccato di uno, e quindi a più forte ragione la salvezza conquistata dal Cristo raggiunge tutti, tutti, anche quelli che non lo conoscono. Allora, che diversità c'è tra i cristiani e gli altri? Sta soltanto in un sapere. I cristiani sono quelli che sanno che il Cristo è morto per loro, che sanno di essere rivestiti della giustizia di Dio grazie all'opera di Cristo e che cercano di vivere questo messaggio. Gli altri non lo sanno, non lo sanno. E noi in mezzo a loro dobbiamo essere quelli che attestano, che testimoniano con il nostro agire più che con le nostre parole, che effettivamente la salvezza raggiunge tutti gli uomini. Ecco, questo è un primo elemento del capitolo 8 dell'Epistola ai Romani, questa salvezza che scende dall'evento della croce. Poi, in un secondo tempo, versetti 5 a 11, Paolo si sofferma sulla condizione attuale dei cristiani e vi oppone due regimi, i due regimi in cui gli uomini possono vivere oggi. Ormai la vera distinzione non è più, come nel regime dell'Antico Testamento, tra ebrei e non ebrei, ma gli ebrei e i goyim, come si dice in ebraico, ma la vera distinzione è tra quelli che vivono secondo la carne e quelli che vivono secondo lo spirito. Questa è la vera distinzione, quelli che vivono secondo la carne e quelli che vivono secondo lo spirito. E allora Paolo si sofferma su quelli che vivono secondo la carne, e il ritratto è cupo, nero, scuro, terribile, perché non è il ritratto vero del non credente, ma è soltanto un ritratto teologico in cui tutto va male perché appunto è dominato dal peccato. E questo ritratto dei versetti 5 a 11 serve soltanto da controluce per mettere in evidenza l'altro regime, quello che interessa a Paolo. I romani cristiani sono quelli che vivono secondo lo spirito. Allora, per controluce rispetto a quelli che vivono sotto il peccato, descrive il modo con cui vivono i cristiani. Allora, secondo lui, quelli che vivono nel regime dello spirito desiderano ciò che è dello spirito. Ora, il desiderio dello spirito è vita e pace. Per Paolo, colui che è abitato dallo spirito di Dio ha lo spirito di Dio. Vive cioè nella situazione stessa di Cristo, il quale era colui nel quale agiva e viveva lo Spirito Santo. Avete presente al momento in cui Gesù riceve il battesimo, Giovanni Battista dice: ho visto lo Spirito scendere su di lui e dimorare in lui. Quindi lo Spirito abita in Gesù, a tal punto che al capitolo 7 dell'Evangelo di Giovanni si parla dello Spirito che non c'era ancora perché Gesù non era stato glorificato, appunto perché lo Spirito in quel tempo era tutto compreso nel corpo di Gesù. E sulla croce, quando Gesù muore, non si dice semplicemente spirò, ma dice effuse lo Spirito. Questo Spirito Santo che animava la vita di Gesù è quello che restituisce, che emette alla sua morte come in una specie di prima Pentecoste. Cioè lo Spirito abitava in Gesù, così come Paolo parla del credente che vive nel regime dello Spirito, dice nei versetti 9 e 10, lo Spirito di Dio abita in voi, oppure avete lo Spirito di Cristo, oppure ancora e il Cristo è in voi. Sono delle affermazioni fortissime dell'essere credente. Noi cristiani, noi che siamo stati battezzati, ormai viviamo questa situazione. Evidentemente, di nuovo, questo non è il ritratto storico dei cristiani di Corinto o di Roma, è un ritratto teologico che non corrisponde effettivamente a quello che viviamo. Pensiamo, non so, ai cristiani di Corinto, che Paolo li rimprovera tanti peccati, eppure anche loro sono dei cristiani che vivono questa vita nuova. È un ritratto teologico per cui Paolo dirà: ciò che siete diventati, dovete diventarlo. È quello che riprende Paolo quando riprende nel capitolo 8 quello che aveva detto in un certo modo nel capitolo 6. Nel capitolo 6 aveva detto: così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. La realtà della morte e della vita nuova in Cristo nel battesimo. Qui nel capitolo 8 dice: se il Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. Lo spirito è la vita di colui che è l'uomo nuovo. Di ciò certamente vediamo poco nella nostra vita attuale, la vediamo poco anche in quelli che la Chiesa pensa bene di aver, ha pensato bene di elevare al grado di santità. Anche loro erano peccatori, pur se noi li proclamiamo santi, anche loro erano dei peccatori, non vivevano esattamente come il Cristo stesso, benché Cristo vivesse in loro. Quindi, santi o non santi, siamo tutti santi per Paolo, perché siamo abitati dallo Spirito Santo, siamo abitati da Cristo. Questo ci porta allora a un altro paragrafo del capitolo 8 dell'Epistola ai Romani, che è una specie di conclusione in forma di esortazione. Già che siamo in questa situazione, allora cercate di vivere questa realtà. Come lo fa? Sono i versetti 14 a 17 del capitolo 8. Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Non avete ricevuto uno spirito che vi rende schiavi e vi fa cadere nella paura, ma uno spirito che fa di voi dei figli e nel quale gridiamo Abba Padre. Questo spirito attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Figli e dunque anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, poiché soffriamo insieme con Lui per essere insieme a Lui glorificato. Ecco questo testo che avevo citato all'inizio, che riprendo adesso. Ciò che l'Apostolo qui dice, dopo quello che ha appena detto, è praticamente quello che siete diventati nel battesimo, allora manifestatelo nella vostra vita. Paolo parte della condizione attuale del credente, che è il frutto della croce di Cristo, che fa di loro dei figli di Dio, e Paolo continua dicendo: avete ricevuto uno spirito di figliolanza. Lì l'espressione è un po' difficile, perché solitamente nelle nostre traduzioni si dice: avete ricevuto uno spirito di adozione a figli. Perché effettivamente l'espressione utilizzata è quella di adozione. Siamo diventati figli per adozione. Soltanto che non utilizzo qui il termine di adozione perché il termine di Paolo non corrisponde a quello che noi intendiamo oggi per adozione, cioè con i loro criteri giuridici e legalistici per essere riconosciuto come figlio adottivo, che poi fa sempre del figlio adottivo un figlio di secondo grado rispetto al primo. Invece, per Paolo questo figlio, questa adozione fa di noi dei figli a tutti gli effetti, tant'è vero che non soltanto diventiamo figli di Dio, ma siamo coeredi, cioè siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo. Ma che cosa pensa Paolo quando parla di questa eredità? È sempre un po' difficile vederlo, perché non è una categoria con la quale Paolo parla spesso, però probabilmente questa eredità è ereditare il regno di Dio. Siamo eredi del regno di Dio, siamo coeredi con Cristo dello stesso regno. Grazie all'evento del battesimo, che ha fatto di noi questi esseri nuovi, siamo diventati veramente figli a tutti gli effetti, al punto che possiamo chiamare Dio non soltanto padre, ma Abba, che Abba in aramaico vuol dire papà. Cioè è un termine di estrema intimità che soltanto un figlio può veramente dire a suo padre, non soltanto quando è bambino, ma fino a quando è adulto si può sempre chiamare suo padre papà o babbo. Però cioè, l'intimità è tale che neanche i cristiani hanno proseguito a parlare di Dio in questi termini. No, padre nostro, padre. E poi subito tutta la venerazione che mettiamo dietro questo termine, come fanno gli ebrei, che dicono anche di Dio che è padre nostro. Ma non avrebbero mai l'idea di chiamare Dio Abba, perché questo va bene per il padre terreno, ma per il padre celeste, no? Invece Paolo, no, dice, voi potete dire Abba come faceva Gesù stesso. Ricordate nella preghiera di Gesù al Getsemani, ha proprio detto Abba, sia lontani da me questo calice, ma la tua volontà si compia e non la mia. Quindi c'è veramente l'insistenza con forza da parte di Gesù sulla qualità di figli che siamo diventati attraverso il battesimo. Siamo diventati come il Cristo, praticamente. Però appunto questo lo possono dire soltanto i cristiani. Perché per poter dire a Dio Abba bisogna sapere che Dio è padre. Se lo considero soltanto come un Dio che sta nel cielo, non è il mio padre. E quindi c'è una limitazione attualmente di questo titolo di figli di Dio. I figli di Dio sono soltanto i cristiani. E perché questa limitazione? Essenzialmente per due motivi. Perché fondamentalmente Dio ha un solo figlio, che è Gesù Cristo, è il figlio unigenito, l'unico che è l'immagine perfetta del Padre, come dice l'Epistola ai Colossesi, l'unico che, essendo in forma divina, era uguale a Dio, come dice nell'inno della lettera di Paolo ai Filippesi. Quindi c'è uno solo che è veramente il figlio di Dio. E perciò chiunque altro si autochiamerà o verrà chiamato figlio di Dio sarà sempre cum grano salis, se posso dire, più o meno, in un qualche modo. E il secondo motivo per cui questa limitazione c'è è che, quello che vi ho detto, per poter dire a Dio Abba bisogna sapere che lui è il nostro padre, che non è soltanto il Dio del cielo, il creatore, la forma, l'essere suprema, il grande architetto. Non dico al grande architetto Abba, ma soltanto a colui del quale ho sperimentato l'amore, allora posso dire Abba. Ed è quello che avviene attraverso il battesimo per i cristiani. E allora Paolo conclude con un crescendo impressionante: figli siete e dunque anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, poiché soffriamo insieme con Lui per essere insieme a Lui glorificati. Eredi, ho già letto quello che pensavo di dire, Invece c'è un'espressione che ho modificato nella traduzione, perché solitamente non si dice eredi di Dio, coeredi di Cristo, se è vero che soffriamo con Lui per essere con Lui glorificato. Come se ci fosse la necessità di pregare, di soffrire per ricevere questa eredità. L'espressione greca non dice se è vero che, o seppur nella sofferenza, ma poiché. Le altre utilizzazioni di questo termine del Nuovo Testamento sono sempre un poiché. Cioè la realtà della sofferenza non abbiamo mica bisogno di cercarla, ce l'abbiamo. Il problema è come viviamo quella sofferenza che comunque c'è. Se la viviamo insieme con Cristo, allora questa sofferenza non è più soltanto un male che devo assolutamente abolire a tutti i costi, diventa una compartecipazione all'essere identificato a Cristo. Nella realtà di Cristo, il suo essere figlio di Dio non gli ha risparmiato le sofferenze, anzi ci ha tanto amato da dare la propria vita per noi. E quindi le sofferenze che ci vengono, dobbiamo imparare a viverle insieme nella comunione di questo Cristo che abita in noi. Non c'è bisogno di cercare queste sofferenze. Vorrei ancora sottolineare l'audacia del crescendo che Paolo esprime alla fine di questo paragrafo, quando dice figli dunque eredi di Dio, coeredi di Cristo, poiché soffriamo con Lui per essere insieme con Lui glorificato. Cioè attraverso questa nostra vita animata, guidata dallo Spirito Santo, in un qualche modo già viviamo la glorificazione. Siamo primizia di quello che sarà il movimento finale della storia, la storia della redenzione. Questo nostro vivere con Cristo è il segno, è la testimonianza che il mondo nella sua interezza corre non verso la distruzione, ma verso la redenzione. C'è poi una seconda parte in questo capitolo 8 della lettera ai Romani, sulla quale mi fermo soltanto pochi istanti, perché a questo punto, allora, avendo parlato delle sofferenze, Paolo riprende questo tema e dice: ecco, voi siete animati dallo Spirito Santo, siete stati conformati al Cristo, quindi siete confermati anche attraverso le sofferenze, e queste sofferenze le sviluppa in tre contesti, dicendo che in un primo tempo queste nostre sofferenze sono una partecipazione alla sofferenza della creazione. Tutta la creazione geme. Geme nell'attesa della manifestazione dei figli di Dio. Ma i figli di Dio siamo noi. Allora, perché la creazione geme nell'attesa della manifestazione? Perché noi siamo figli di Dio, ma noi non siamo ancora veramente manifestati come tali. Saremo manifestati come tali quando faremo veramente quello che dovrebbe fare il figlio di Dio sulla creazione. Non depredare la creazione come facciamo noi, distruggerla a forza di volerla a tutti i costi consumare, ma saremo veramente e vivremo veramente la nostra figliolanza di Dio quando ci metteremo al servizio della creazione. Per vivere in armonia con lei, allora a quel momento, come dice Isaia, il lupo abiterà con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto alla capra, il vitello, il leoncello, il bestiame ingrassato saranno insieme e un piccolo bambino li guiderà. La mucca come l'orsa pascoleranno, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Questo non è ancora quello che viviamo, ma questo sarà quello e ciò verso di cui noi andiamo. E di qui dovremmo essere un po' i segni, le premesse, quelli che ricordano che questo è l'avvenire del mondo. Però poi ci sono un secondo livello di sofferenze, nei versetti 23 a 25 di questo capitolo 8, in cui ci sono sofferenze specifiche del cristiano, i quali soffrono nell'attesa della piena manifestazione del loro essere figli di Dio. Cioè, è molto significativo, a mio avviso, che quando Paolo parla delle sofferenze del cristiano, non pensa tanto alle persecuzioni o alle numerose difficoltà che incontrano i cristiani in una società non cristiana, pagana, però pensa alla sofferenza costituita dall'attesa della redenzione. La speranza è sofferenza. Questa è la sofferenza specifica del cristiano, che vive della speranza. E infatti nel mondo greco la speranza è un male da abolire, è un male, è una malattia. Chi spera è malato. E per questo si cerca di eliminare la speranza nel mondo greco, perché la speranza fa male. Paolo invece dice no, noi non siamo cristiani e viviamo di speranza, anche se questo è una sofferenza che è specifica dei cristiani. E infatti, infine, questa sofferenza dei cristiani è associata a un terzo tipo di sofferenza un po' curiosa, che Paolo chiama i gemiti dello Spirito. Lo Spirito, allo stesso modo, viene a soccorrere la nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come necessario, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti indicibili, e colui che scruta i cuori sa quale sia l'aspirazione dello Spirito, poiché è secondo Dio che egli interviene a favore dei santi. Anche lì una parola difficile, però probabilmente quello che Paolo vuol dire non è tanto che lo Spirito soffra. Non è pensabile che Paolo immagini che lo Spirito Santo possa soffrire. Questo allo stesso modo, lo Spirito Santo non gioca su un paragone delle sofferenze, ma un paragone sull'azione dello Spirito Santo in tutta l'operazione, in tutta la vita di sofferenza vissuta dal cristiano. I gemiti sembrano significare che in tutte le sofferenze che subisce il cristiano, egli trova nello Spirito la consolazione che lo rende forte attraverso lo Spirito, e grazie a lui può chiamare Dio Abba. È anche lo Spirito che attesta al credente che è figlio di Dio, è ancora lui che lo rende capace di aspettare con perseveranza la manifestazione del suo essere figli, quindi questa attesa della redenzione, e allo stesso modo è lui che supplisce alla nostra debolezza nel tempo presente. Forse Paolo a questo punto vuol sottolineare che noi in questo tempo noi rivolgiamo a Dio delle preghiere che sono deboli, che sono balbettate, non sappiamo cosa chiedere a Dio. Lo Spirito Santo si impadronisce delle nostre povere preghiere, le trasforma in preghiera sua che rivolge al Padre. E a questo punto allora la preghiera nostra diventa perfetta, perché è lo Spirito Santo che l'ha modellata secondo la volontà di Dio, e quindi la nostra preghiera diventa una preghiera che Dio ascolta e ama. Ecco, per questo Paolo ha potuto introdurre questo grande paragrafo sulle sofferenze dei figli di Dio, appunto perché sono il luogo dove si manifesta con particolare intensità l'attività dello Spirito Santo in noi. Ancora un'ultima riflessione, se mi concedete ancora 5 minuti, un'ultima riflessione. A questo punto allora qual è la relazione che dobbiamo, che possiamo avere con quelli che non si possono dire figli di Dio perché non lo sono ancora, ma che comunque sono chiamati a diventare figli di Dio, che sono quelli che non sono né ebrei né cristiani. Io vorrei soltanto riprendere ancora una volta questo tema della sofferenza. Cioè noi, in quanto figli di Dio, dobbiamo fare quel che Dio stesso fa in Gesù Cristo. Ora, nell'Epistola ai Romani, Paolo descrive l'azione del Cristo in un modo diversificato a secondo che agisce per gli ebrei o che agisce per i pagani. Dice: accoglietevi gli uni gli altri come anche il Cristo ha accolto voi per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo si è fatto servitore della circoncisione, quindi degli ebrei, a dimostrazione della verità di Dio, per confermare le promesse fatte ai padri, mentre le genti, cioè i pagani, glorificano Dio per la sua misericordia. Cioè Paolo, questo è il capitolo 15, versetto 7 a 9. In questi versetti Paolo esorta i romani a accogliersi gli uni gli altri come il Cristo ci ha accolto. E dice che questa accoglienza di Cristo avviene in due modi diversi. Per gli ebrei, Gesù ha accolto gli ebrei dimostrando la fedeltà di Dio alle promesse. E questo è avvenuto in Cristo, che è nato a Betlemme, in terra di Israele, è nato dalla tribù di Giuda, quindi dalla tribù dalla quale scende il re di Israele, il re Davide. Gesù è stato colui che ha compiuto la legge, cioè si è dimostrato come vero ebreo nel quale le promesse di Dio sono realizzate e trovano la loro risoluzione. Quindi di fronte agli ebrei Gesù si è mostrato colui che conferma pienamente le promesse fatte da Dio a Abramo. E che la maggior parte degli ebrei non abbiano creduto in lui non cambia niente, perché c'è un resto di Israele, cioè i primi cristiani, che tutti erano ebrei, Maria, gli apostoli, la chiesa primitiva, e poi tutti gli ebrei che sono diventati cristiani nel corso dei secoli, tutti questi attestano che effettivamente Gesù è la dimostrazione della fedeltà di Dio alle promesse fatte a Abramo e al popolo di Israele. Nei confronti dei pagani, Gesù è colui che manifesta la misericordia di Dio, per cui i pagani, le genti, glorificano Dio. Allora, come ha manifestato la misericordia di Dio? Ma l'ha manifestato sulla croce, in cui attraverso la sua morte la salvezza di Dio raggiunge tutti gli uomini. E quindi tutti gli uomini possono trovare la salvezza in Lui. Che la maggior parte delle genti non abbiano accolto il Cristo non cambia niente, la salvezza di Cristo è per tutti gli uomini. E quelli dei pagani che sono diventati cristiani, il resto del mondo, delle genti, attesta che effettivamente la misericordia di Dio raggiunge anche i pagani, perché ha raggiunto loro, e quindi può raggiungere anche tutti gli altri. E addirittura, questa è la cosa più grande, che questa misericordia di Dio per i pagani è ancora un segno della fedeltà di Dio alle promesse di Abramo. Perché a Abramo Dio aveva promesso: in te tutte le famiglie della terra si benediranno. E questo avviene proprio nella persona di Cristo. Grazie a Cristo tutte le genti possono glorificarsi e benedirsi nel nome di Dio e ricevere la salvezza. Allora, qual è il rapporto che noi, figli di Dio, dobbiamo avere con gli altri? Ma dobbiamo essere testimoni di questo. Dobbiamo essere per loro testimoni che effettivamente la salvezza li raggiunge anche loro, anche se non lo sanno. E questo messaggio lo facciamo nella misura in cui, come il Cristo ha servito noi, noi ci mettiamo al servizio loro. E consideriamo gli altri, questi non credenti, come dei padroni che dobbiamo servire manifestando a loro la misericordia di Dio nel nostro agire. Concludo con un'ultima parola che mi viene dall'Evangelo di Matteo. Gesù ha detto ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra. Voi sapete benissimo che basta un pizzico di sale per dare il gusto a tutta la minestra. Gesù non ha detto ai suoi discepoli: trasformate il mondo in saliera, sarebbe invivibile. Basta un pizzico di cristiani, questi danno il gusto a tutta la minestra che è il mondo, e grazie a questa piccola presenza cristiana il mondo intero riceve la salvezza che Dio ha dato per tutti gli uomini nell'evento della croce. I giorni della Chiesa. E questo era l'intervento di Daniel Attinger sul tema «Siamo figli di Dio? No, lo diventiamo». Attinger è intervenuto nel corso del ciclo di incontri promosso dal Centro Universitario di Via Zabarella a Padova per ricordare i 500 anni dalla Riforma Luterana 1517-2017, un percorso che ha come punto di riferimento di fondo la lettera ai Romani. Su questo tema si tornerà anche nelle prossime puntate. La prossima, nello specifico dopo Pasqua, vedrà l'intervento del teologo valdese Paolo Ricca. Grazie a Didaici Regia, al Centro Universitario per aver collaborato per la condivisione di questa registrazione, a voi tutti per l'ascolto, da Mirko Cavallini. Buon proseguimento. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.